Pronto? Sì, guarda, buonasera. Trasmissione speciale Palestina per dare questa comunicazione, questa manifestazione che mi stavi dicendo che è partita. Tanto parlavamo delle manifestazioni in Palestina, facciamo il paragone. Sì, sì, beh, adesso mo i paragoni sono sempre un po' forzati. Comunque buonasera a tutti e a tutte, naturalmente. Siamo a questo punto, siamo su Viale Castro Pretorio. La manifestazione è partita da Piazzale Aldo Moro all'università, è una manifestazione che è una prima risposta agli sgomberi violenti di lunedì dopo terzo così chiamato tsunami tour, cioè l'ondata di occupazioni che ha visto realizzare in tutta la città di Roma ben 6 occupazioni, di cui 4 sgomberate nelle prime ore delle occupazioni e 2 che sono ancora in piedi appunto a Torre Spaccata e a nel quartiere della Montagnola. Anche a sostegno di queste occupazioni, naturalmente, per scongiurare l'eventualità che vengano attaccate e sgomberate anch'esse. La manifestazione una manifestazione composta, compatta, non numerosissima, insomma, adesso io non mi azzarderei a dare cifre, però è composta soprattutto da occupanti di case e si sta dirigendo appunto a Porta Pia, che è diventata oramai, come gli ascoltatori della radio sapranno, un po' il punto di riferimento, perché vi è la sede del Ministero delle Infrastrutture e poi è stato il teatro degli ultimi cortei, dell'ultimo corteo del 19 ottobre proprio su queste tematiche. Io non ho molto altro da aggiungere. E l'appuntamento la piazza di partenza della prossima manifestazione di sabato. Esattamente, esattamente, è l'appuntamento che vi ho dato per sabato 12 aprile per questa manifestazione nazionale che ha al suo centro di nuovo le parole d'ordine di casa e reddito e dignità per tutti, l'idea che intorno ai nodi dei bisogni primari la svolta di questa crisi e anche le politiche di questo governo con un po' più sempre al centro la questione del Jobs Act, in qualche maniera, che viene individuato adesso non so con quanta precisione come uno degli elementi dell'ulteriore processo di precarizzazione, insomma, come parole d'ordine. Infatti la manifestazione avrà poi come obiettivi e come percorso tutto il quadrilatero che va dal Ministero delle Infrastrutture al Ministero del Welfare, e quindi farà un percorso piuttosto curioso, piuttosto inusuale per le manifestazioni, da un ministero all'altro sostanzialmente, passando per Piazza Barberini, insomma facendo un giro di questo tipo. La manifestazione mi sembra appunto, come vi ho detto, composta e determinata, e anche una risposta, diciamo così, a quello che è successo subito dopo alle occupazioni, cioè intanto una risposta anche agli sgomberi, ma anche alle polemiche seguite dall'occupazione dei gruppi consiliari del PD e con le conseguenze polemiche giornalistiche in ordine alle presunte violenze che si sarebbero consumate all'interno dei gruppi. C'è su questo, come sapete, anche un po' di dibattito, nel senso che comunque anche all'apertura di questa manifestazione, e con questo veramente concludo, è stato ribadito ai megafoni che per così dire gli incidenti che sono avvenuti sono stati causati da un malinteso sostanzialmente, perché non è interesse dei movimenti del diritto all'abitare individuare quel tipo di sede istituzionale come la controparte assoluta. Certamente si rimprovera un'incapacità della politica, anche quella locale, di affrontare questi temi. Tutto qua. Bene, ti ringrazio della corrispondenza, però tu dicevi non t'azzarderesti, ma poco prima che tu telefonavi parlavo proprio degli sgombri, delle strutture, di quanti erano i palestinesi rimasti per strada e senza tetto di quest'ultimo periodo. No, non mi azzardavo per una forma di rispetto per come dire la drammaticità e il dolore di una terra martoriata che purtroppo vive l'oppressione di un occupante No, no, purtroppo però, ben insomma, più feroce dire, dentro la casualità, la tua corrispondenza che ci parla ancora una volta di sgomberi di persone senza casa. Stavo parlando proprio di quello che era venuto in questo periodo giù in Palestina, insomma, degli ulteriori, per loro è la quotidianità, per noi un po' di meno, però insomma mi sembra che alla fine siamo territori occupati dalle politiche economiche, magari non da un esercito, ma anche da noi possiamo fare, insomma, quindi... Beh, su questo ci sarebbe, anzi potrebbe anche dire che molto chiaramente gli ultimi 20 anni anche di politiche israeliane, al di là della costante applicazione delle politiche di differenziazione etnica e quindi di concussione non esiste, insomma, di distruzione dei diritti del popolo palestinese. Però comunque in quell'area negli ultimi 20 anni il credo neoliberista ha fatto da padrone sia nello Stato di Israele ma sia in tutti quegli parte dei territori occupati che poi ne subiscono inevitabilmente le politiche, con tutte le conseguenze del caso. Certo, chiaramente più drammatiche in Palestina, ma con le stesse caratteristiche, insomma. Certo, no, infatti lo facevo solo come riferimento perché stavamo trattando proprio dell'argomento dei palestinesi che restano senza casa per motivi differenti. Però insomma ti ringrazio della corrispondenza. Se ci sono novità, naturalmente ci facciamo sentire. Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie, ciao.